Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Quell'autunno la neve cadde molto tardi. Abitavamo in una casa di legno scuro fra i pini, sul fianco della montagna, e la notte gelava, così la mattina c'era un sottile strato di ghiaccio sull'acqua delle due brocche sul cassettone. La signora Göttingen veniva presto in camera la mattina a chiudere le finestre e accendere il fuoco nell'alta stufa di porcellana. Il legno di pino scoppiettava e crepitava e poi il fuoco rughiava nella stufa. La seconda volta che la signora Göttingen veniva nella stanza, portava grossi ceppi per il fuoco e una brocca d'acqua calda. Quando la stanza era calda, portava la colazione. Seduti nel letto a mangiare la colazione, vedevamo il lago e le montagne di là del lago sulla riva francese. C'era la neve sulla cima delle montagne e il lago aveva il color grigio-azzurro dell'acciaio. Fuori, davanti allo chalet, la strada saliva sulla montagna. Le carreggiate e i solchi erano duri come il ferro per il gelo e la strada si svolgeva ostinata nella foresta su intorno alla montagna fin dove c'erano le praterie e i granai e le baite nelle praterie sull'orlo dei boschi che guardavano la valle. Era una valle profonda e in fondo c'era un torrente che scendeva al lago e quando il vento attraversava la valle si udiva il torrente sulle rocce. A volte si andava sulla strada per un sentiero attraverso la foresta di pini. Il suolo della foresta era tenero a camminarci. Il gelo non riusciva a indurirlo come la strada, ma non ci importava che la strada fosse dura, perché avevamo chiodi nelle suole e nei talloni degli scarponi, e i chiodi dei talloni mordevano le carreggiate gelate e con gli scarponi chiodati. Era bello camminare sulla strada e dava vigore, ma era bello camminare nei boschi. Davanti alla casa dove abitavamo, la montagna scendeva ripida sulla piccola pianura lungo il lago e sedevamo sulla veranda della casa, al sole, e si vedeva il serpeggiare della strada sul fianco della montagna e i vigneti a terrazza sul fianco della montagna più basso, con le vigne tutte morte ora per l'inverno e i campi divisi da muretti di pietre e sotto i vigneti le case della città sulla stretta pianura lungo la riva del lago. C'era un'isola con due alberi sul lago e gli alberi parevano le doppie vele di una barca da pesca. Sull'altra riva del lago le montagne erano stagliate e ripide e giù, alla fine del lago, c'era la pianura della vallata del Rodano, piatta tra due file di montagne. E in cima alla valle, dove le montagne la coprivano, c'era il Dent du Midi. Era una montagna alta e nevosa e dominava la valle, ma era così lontana che non faceva ombra. Quando il sole era limpido, facevamo colazione sulla veranda, ma le altre volte mangiavamo di sopra in una cameretta dalle pareti di legno semplice con una grossa stufa in un angolo. Compravamo libri e riviste in città e una copia di Hoyle e imparavamo molti giochi a carte da farsi in due. La stanzetta con la stufa era la nostra camera di soggiorno. C'erano due poltrone comode, una tavola per i libri e le riviste e giocavamo a carte sulla tavola da pranzo quando era stata sparecchiata. I due Göttingen vivevano di sotto e a volte la sera li sentivamo parlare ed erano anche loro molto felici insieme. Lui aveva fatto il cameriere e lei aveva lavorato come domestica nello stesso albergo e avevano risparmiato il loro denaro per comprare questa casa. Avevano un figlio che studiava per diventare capocameriere. Era in un albergo a Zurigo. Di sotto c'era una sala dove vendevano vino e birra e a volte la sera udivamo carri fermarsi fuori sulla strada e uomini che salivano i gradini per andare in sala a bere. C'era una cassa di legna nell'anticamera fuori del soggiorno e di lì attingevo per tenere il fuoco acceso. Ma non stavamo alzati fino a tardi la notte. Andavamo a letto al buio nella grande stanza. E quando mi ero spogliato, aprivo le finestre e vedevo la notte, e le stelle fredde, e i pini sotto la finestra. E poi andavo a letto più presto che potevo. Era bello nel letto con l'aria così fredda e limpida e la notte fuori dalla finestra. Dormivamo bene, e se mi svegliavo, la notte sapevo che era per un unico motivo e scostavo il piumino, piano, per non svegliare Catherine. e poi tornavo a dormire caldo e con la nuova leggerezza delle coperte sottili. La guerra sembrava lontana come le partite di football di una squadra indifferente, ma sapevo dai giornali che stavano ancora combattendo nelle montagne perché la neve non veniva. A volte scendevamo la montagna fino a Montreux. C'era un sentiero che scendeva la montagna, ma era ripido, e così di solito prendevamo la strada e scendevamo sulla vasta strada dura fra i campi, e poi in basso tra i muretti di pietra delle vigne e giù, giù fra le case dei villaggi che si incontravano per via. C'erano tre villaggi: Charnay, Fontanivan e un altro che non ricordo. Poi lungo la strada passavamo davanti a un vecchio château quadrato di pietra, a strapiombo sul fianco della montagna con le terrazze di viti, ogni vite legata a un bastone per non cadere, vigne secche e brune, e la terra pronta per la neve, e il lago in fondo piatto e grigio come l'acciaio. La strada scendeva a pendenza dolce sotto lo château, e poi svoltava a destra e scendeva ripida e lastricata di ciottoli a Montreux. Non conoscevamo nessuno a Montreux. Passeggiavamo lungo il lago e vedevamo i cigni e i gabbiani e le starne che si alzavano in volo quando ci avvicinavamo e strillavano guardando l'acqua. Al largo del lago c'erano stormi di colombi piccoli e neri che nuotando lasciavano scie nell'acqua. In città passeggiavamo nella strada principale e guardavamo le vetrine dei negozi. C'erano molti grossi alberghi chiusi, ma quasi tutti i negozi erano aperti e la gente era molto lieta di vederci. C'era un bravo parrucchiere dove Catherine andava a farsi lavare i capelli. La donna che dirigeva era molto allegra ed era la sola persona che conoscevamo a Montreux. Mentre Catherine era dentro, io andavo in una birreria e bevevo birra scura di Monaco e leggevo i giornali. Leggevo il Corriere della Sera e i giornali inglesi e americani che arrivavano da Parigi. Tutte le inserzioni pubblicitarie erano coperte di nero, probabilmente per impedire comunicazioni col nemico. I giornali erano una cattiva lettura. Tutto andava molto male da tutte le parti. Ero abbandonato in un angolo con un grosso boccale di birra scura e un pacco aperto di carta impermeabile e mangiavo i pretzels per il sapore salato e per il profumo che davano alla birra, e leggevo del disastro. Pensai che Catherine venisse, ma non veniva. Così rimisi i giornali sulla rastrelliera, pagai la birra e risalii la strada per cercarla. La giornata era fredda e buia e invernale, e la pietra delle case aveva l'aria di essere fredda. Catherine era ancora nel negozio del parrucchiere. La donna le ondulava i capelli. Sedetti nella cabina e aspettai. Era interessante guardare. E Catherine sorrideva e mi parlava e la mia voce era un po' spessa per l'eccitazione. I ferri facevano un piacevole cliccattio e vedevo Catherine in tre specchi e nella cabina era piacevole e caldo. Poi la donna tirò su i capelli di Catherine e Catherine si guardò nello specchio e li cambiò un poco togliendo e mettendo forcine. Poi si alzò. «Mi dispiace di aver impiegato troppo tempo. A Monsieur interessava molto, non è vero Monsieur?» sorrise la donna. «Sì», dissi. Uscimmo per la strada. Faceva un freddo da inverno e il vento soffiava. «Cara, ti amo tanto», dissi. «Non è bello», disse Catherine. «Guarda, andiamo in un posto a bere della birra invece del tè. Fa molto bene la piccola Catherine. La fa restare piccola». «La piccola Catherine», dicevo. «Quella fannullona». «È molto brava», disse Catherine. «Da così poca noia. Il dottore dice che la birra mi farà bene e la farà restare piccola. Se riesce a farla restare abbastanza piccola e sarà un maschio, magari potrà fare il fantino. Se avremo davvero questo bambino, dovremo sposarci», disse Catherine. Eravamo nella birreria al tavolo d'angolo. Fuori calava il buio. Era ancora presto, ma il giorno era scuro e il crepuscolo scendeva presto. «Sposiamoci subito», dissi. «No», disse Catherine, «è troppo imbarazzante adesso, è troppo visibile. Non voglio andare davanti a nessuno a sposarmi in questo stato». «Vorrei che fossimo già sposati. Credo che sarebbe stato meglio. Ma quando avremmo potuto farlo, caro?» «Non lo so. Io so solo una cosa», non mi sposerò in questo stupendo stato matronale. Non sei matronale, oh sì. Lo sono, caro. La pettinatrice mi ha chiesto se era il primo. Ho mentito e ho detto di no. Che avevamo due bimbi e due bimbe. Quando ci sposiamo, appena sono di nuovo magra, avremo un matrimonio splendido e tutti penseranno che bella coppia giovane. E non sei preoccupata, caro, perché dovrei essere preoccupata? La sola volta che mi sono sentita male è stato quando a Milano mi è parso di essere una prostituta. E durò soltanto 5 minuti e poi c'era la mobilia della stanza. Non sono una buona moglie. Sei una moglie magnifica. Allora non essere tanto pignolo, caro. Ti sposerò appena sarò di nuovo magra. Va bene. Credi che dovrei bere un'altra birra? Il dottore ha detto che ho i fianchi un po' stretti ed è meglio se faccio restare piccola Catherine. E che cos'altro ha detto? Ero preoccupato. Niente. Ho una magnifica pressione del sangue, caro. Ha ammirato molto la mia pressione del sangue. Che cosa ha detto? Che sei troppo stretta di fianchi? Niente, proprio niente. Ha detto che non devo sciare. Ha ragione. Ha detto che è troppo tardi per cominciare se non ho mai sciato. Ha detto che potrei sciare se non cadessi. Un buon tempone. È davvero molto simpatico. Lo chiameremo quando nasce il bambino. Gli hai chiesto se è meglio che ti sposi? No. Gli ho detto che siamo sposati da 4 anni. Vedi, caro, se ti sposo diventerò americana. In qualunque momento ci sposiamo. Secondo la legge americana il bambino diventerà legittimo. Dove l'hai scoperto? Nel World Almanac di New York, in biblioteca. Sei una ragazza straordinaria. Sarò molto lieta di essere americana. E andremo in America, vero caro? Voglio vedere le cascate del Niagara. Sei una brava ragazza. C'è un'altra cosa che voglio vedere, ma non riesco a ricordarla. I mattatoi? No, non riesco a ricordarla. Il Woolworth Building? No. Il Grand Canyon? No. Ma mi piacerebbe vederlo. Che cos'era? Il Golden Gate. È questo che voglio vedere. Dov'è il Golden Gate? A San Francisco. Allora andiamo lì. Comunque voglio vedere San Francisco. Bene, ci andremo. Per ora andiamo in montagna. Vuoi? Vogliamo prendere la mob? C'è un treno poco dopo le 5. Prendiamo quello. Va bene. Prima bevo un'altra birra. Quando uscimmo per salire la strada e le scale che conducevano alla stazione faceva molto freddo. Un vento freddo scendeva nella valle del Rodano. Le vetrine dei negozi erano illuminate e salimmo la ripida scalinata di pietra che conduceva alla strada superiore. Poi un'altra scalinata fino alla stazione. Il treno elettrico stava aspettando con tutte le luci accese. C'era un quadrante che mostrava l'ora della partenza. Le lancette dell'orologio indicavano 10 minuti dopo le 5. Guardai l'orologio della stazione. Erano le 5:05. Mentre salivamo, vidi il meccanico e il conducente uscire dall'osteria della stazione. Sedemmo e aprimmo il finestrino. Il treno era riscaldato elettricamente e soffocante, ma l'aria fredda entrò dal finestrino. «Sei stanca, Cat?» chiesi. «No, sto magnificamente. Non è un viaggio lungo. Mi piace viaggiare», disse. «Non preoccuparti per me, caro, sto bene». La neve non cadde fino a 3 giorni prima di Natale. Una mattina ci svegliammo che stava nevicando. Restammo a letto col fuoco che rugghiava nella stufa a guardare cadere la neve. La signora Göttingen portò via i vassoi della colazione e mise altra legna nella stufa. Era una grossa tempesta di neve. Disse che era incominciata verso mezzanotte. Andai alla finestra a guardare fuori, ma non riuscii a vedere di là della strada. C'era un vento forte e nevicava follemente. Ritornai a letto e restammo sdraiate a chiacchierare. «Peccato che non possa sciare», disse Catherine. «È una porcheria non sapere sciare. Prenderemo uno slittino e verremo giù per la strada. Non sarà peggio che andare in una macchina. Non sarà violento? Proviamo. Spero che non sia troppo violento. Dopo un po' facciamo un giretto nella neve». «Prima di colazione», disse Catherine, «così ci verrà appetito. Io ho sempre fame, anch'io». Uscimmo nella neve, ma se ne era ammassata tanta che non potemmo andare lontano. Andai avanti e battei una pista fino alla stazione, ma quando arrivammo là Avevamo camminato abbastanza. La neve turbinava tanto che non potevamo quasi vedere ed entrammo nell'alberghetto vicino alla stazione e ci ripulimmo con una scopa e sedemmo su una panca a prendere il vermouth. «È una gran tempesta», disse la cameriera. «Sì, la neve è venuta tardi quest'anno». «Sì, chissà se posso mangiare una tavoletta di cioccolato», disse Catherine, «o se è troppo vicina a colazione, ho sempre fame». «Su, mangiala», dissi. «Ne prenderò una con le nocciole», disse Catherine. «È molto buona», disse la cameriera. «È quella che preferisco. Io prendo un altro vermouth», dissi. Quando uscimmo per risalire la strada, la nostra pista era piena di neve. Vi erano solo lievi tracce dove erano stati i buchi. La neve ci soffiava in faccia, accecandoci quasi. Ci ripulimmo ed entrammo a fare colazione. Ci servì la colazione il signor Guttingen. «Domani si scierà», disse. «Sa sciare, signor Henry?» «No, ma voglio imparare». «Imparerà molto facilmente. Mio figlio sarà qui per Natale e le insegnerà». «Benissimo. Quando arriverà?» «Domani sera». Dopo colazione, quando fummo seduti nella stanza accanto alla stufa a guardare fuori dalla finestra la neve che cadeva, Catherine disse: «Non ti piacerebbe andare a fare un viaggetto da solo, caro? Con uomini, a sciare?» «No, perché? Credo che a volte tu abbia voglia di vedere altra gente oltre me». «Tu hai voglia di vedere altra gente?» «No, neanch'io». «Lo so, ma tu sei diverso. Io devo avere un bimbo e mi basta non avere niente da fare. So che sono terribilmente stupida e parlo troppo e credo che dovresti andartene per non stancarti di me». «Vuoi che me ne vada?» «No, voglio che tu rimanga. È proprio quello che farò». «Vieni qui», disse, «che voglio sentire il tuo bernoccolo. È un gran bernoccolo». Vi fece passare sopra il dito. «Caro, perché non ti fai crescere la barba? Ti piacerebbe?» «Sarebbe buffo, mi piacerebbe vederti con la barba». «Bene, me la farò crescere. Incomincerò da questo momento». «È una buona idea. Mi darà qualcosa da fare». «Sei preoccupato perché non hai niente da fare?» «No, mi piace. Ho una vita così bella». «E tu no?» «Ho una vita bellissima. Ma avevo paura perché ora sono grossa. Forse ti secca. Cat, non sai come sono pazzo di te. Anche così? Come sei? Sto così bene. Non viviamo contenti?» «Io sì, ma pensavo che forse tu fossi irrequieto». «No, a volte penso al fronte e alla gente che conosco, ma non me ne importa niente. Non penso granché a niente». «E che cosa pensi?» «A Rinaldi e al cappellano. E a un mucchio di gente che conosco. Ma non penso molto a loro. Non voglio pensare alla guerra. Per me la guerra è finita». «A che cosa stai pensando adesso?» «A niente». «Sì, stavi pensando a qualcosa. Dimmelo». «Pensavo se Rinaldi aveva la sifilide». «Nient'altro? No». «Ce l'ha?» «Non lo so». «Sono lieta che tu non l'abbia. Hai mai avuto niente del genere?» «Ho avuto la gonorrea. Non voglio che tu me ne parli». «Ti ha dato molta noia, caro?» «Molta. Vorrei averla avuta anch'io». «No, non è vero». «Sì, è vero. Vorrei averla avuta anch'io per essere come te. Vorrei essere andata con tutte le tue ragazze per prenderle in giro con te». «È una bella prospettiva». «Non è una bella prospettiva che tu abbia avuto la gonorrea». «Lo so. Guarda la neve adesso. Preferisco guardare te». «Caro, perché non ti fai crescere i capelli?» «Come crescere?» «Solo crescere un po'. Sono lunghi abbastanza, mi pare». «No, no, falli crescere un po'. Io mi faccio tagliare i miei e saremo proprio uguali. Solo una bionda e uno nero. Non voglio che ti tagli i capelli. Beh, sarebbe divertente. Sono stanca di averli. Sono un fastidio tremendo a letto la notte». «A me piacciono». «Non ti piacerebbero corti?» «Forse. Mi piacciono come sono. Può darsi che siano carini, corti. Poi saremo uguali. Caro, ti desidero tanto che vorrei anche essere te. Lo sei. Siamo la stessa cosa. Lo so. Di notte lo siamo. Di notte è straordinario». Voglio che ci mescoliamo sempre di più. Non voglio che tu te ne vada. L'ho solo detto. Vai se vuoi andare, ma ritorna presto. Caro, è come se non vivessi, se non sono con te. Non me ne andrò mai, dissi. Non so fare niente senza di te. Non vivo più. Voglio che tu viva. Voglio che tu viva contento. Ma vivremo insieme, vero? E ora che vuoi che smetta di farmi crescere la barba o devo continuare? Oh, continua. Falla crescere, sarà divertente. Forse sarà cresciuta per il nuovo anno. Ora vuoi giocare agli scacchi? Preferirei giocare con te. No. Giochiamo agli scacchi. E dopo? Giochiamo? Sì. Bene. Presi la scacchiera e misi a posto i pezzi. Fuori continuava a nevicare forte. Una volta durante la notte mi svegliai e sentii che anche Catherine era sveglia. La luna splendeva nella finestra e faceva delle ombre sul letto dalle strisce dei vetri. Sei sveglio, tesoro? Sì. Non dormi? Mi sono svegliata pensando a com'ero quasi matta quando ti ho conosciuto. Ricordi? Eri solo un po' matta. Non sarò mai più così. Sono straordinaria adesso. Dici così bene, straordinaria. Dillo. Straordinaria. Straordinaria. Come sei caro. E io non sono matta. Sono solo tanto... tanto, tanto felice. Dormi ancora, dissi. Bene. Addormentiamoci esattamente nello stesso momento. Bene. Ma non ci addormentammo nello stesso momento. Rimasi sveglio a lungo a pensare alle cose e a guardare dormire Catherine con la luna in faccia. E poi mi addormentai anch'io. Verso la metà di gennaio avevo la barba e l'inverno si era avviato in chiare giornate fredde e in rigide notti fredde. Potevamo di nuovo camminare sulla strada. La neve era battuta dura e liscia dalle slitte del fieno e della legna e dai tronchi che venivano trascinati giù dalla montagna. La neve copriva tutta la regione fin quasi a Montreux. Le montagne sull'altra riva del lago erano tutte bianche e la pianura della valle del Rodano era coperta. Facevamo lunghe passeggiate. Catherine portava scarponi chiodati e la mantella e un bastone dalla punta d'acciaio acuminata. Con la mantella non si vedeva che era grossa e non camminavamo troppo in fretta, ma ci fermavamo e sedevamo sui tronchi lungo il ciglio della strada a riposare quando era stanca. C'era un albergo tra gli alberi dove i taglialegna si fermavano a bere e andavano dentro a scaldarsi alla stufa e bere vino rosso caldo con dentro spezie e limone. Lo chiamavano Glühwein e andava benissimo per scaldarsi e fare festa. La locanda era buia e fumosa e poi quando si usciva l'aria fredda entrava violenta nei polmoni e intorpidiva la punta del naso mentre si respirava. Ci si voltava a guardare l'albergo con la luce che usciva dalle finestre e i cavalli dei taglialegna che battevano le zampe a terra e scrollavano la testa per star caldi. Avevano il ghiaccio sui peli del muso e con l'alito facevano pennacchi di ghiaccio nell'aria. Risalendo verso casa la strada era liscia e sdrucciolevole e il ghiaccio reso arancione dai cavalli finché il sentiero della legna svoltava. Allora la strada era neve compatta e pulita e conduceva tra i boschi e due volte tornando a casa la sera vedemmo le volpi. Era un bel paese e ogni volta che uscivamo c'era da divertirsi. «Hai una barba splendida adesso», disse Catherine. «Sembri proprio un taglialegna. Hai visto quello con gli orecchini d'oro?» «È un cacciatore di camosci», dissi. «Li portano perché dicono che aiutano a sentire meglio». «Davvero? Non ci credo. Credo che li portino per far vedere che sono cacciatori di camosci. Ci sono dei camosci da queste parti? Sì. È stato divertente vedere la volpe. Quando dorme si fa girare intorno la coda per stare calda. Deve essere una sensazione magnifica. Ho sempre desiderato avere una coda così. Non sarebbe divertente se avessimo una spazzolina come le volpi. Sarebbe molto difficile vestirsi. Ci si potrebbero far fare apposta i vestiti, oppure vivere in un paese dove non avesse importanza. Viviamo in un paese dove niente ha importanza, non è straordinario che non vediamo mai nessuno. Hai voglia di vedere qualcuno, caro? No, vogliamo sederci qui un momento. Sono un po' stanca. Sedemmo vicini sui tronchi. Davanti a noi la strada scendeva nella foresta. Non si metterà fra noi, è vero? Il marmocchio. No, non lo lasceremo. Come stiamo, denaro? Ne abbiamo un mucchio. Hanno accettato l'ultima tratta a vista. Non cercheranno di venirti a prendere, i tuoi, ora che sanno che sei in Svizzera. È probabile. Scriverò qualcosa. Non hai ancora scritto? No. Soltanto la tratta a vista. Grazie a Dio non sono la tua famiglia. Manderò un telegramma. Non ti importa niente di loro. Mi importava. Ma abbiamo bisticciato talmente che è tutto finito. Credo che potrei volere loro bene. Probabilmente vorrei loro molto bene. Non parliamo di loro, se no incomincerò a preoccuparmi. Dopo un po' dissi: andiamo se ti sei riposata. Sono riposata. Scendemmo lungo la strada. Ora era buio e la neve ci cigolava sotto gli scarponi. La notte era secca e fredda e limpidissima. «Mi piace la tua barba», disse Catherine. «È un gran successo. Pare così dura e ruvida, e invece è morbidissima. È così piacevole. Ti piaccio di più con la barba che senza?» «Credo di sì. Sai, caro, non mi taglierò i capelli finché non è nata Catherine. Sono troppo grossa e matronale adesso, ma quando sarà nata e sarò tornata sottile, li taglierò e così ti sembrerò una ragazza nuova e diversa. Andremo insieme a tagliarli. Oppure andrò sola e verrò a farti una sorpresa.» Non dissi niente. «Non dirai mica che non vuoi, vero?» «No, credo che sarà divertente.» «Sei così, caro. E forse starò bene, caro, e sarò così magra e interessante. E ti innamorerai di nuovo di me.» «Diavolo», dissi. «Ti amo già abbastanza adesso. Che cosa vuoi fare? Rovinarmi?» «Sì, voglio rovinarti.» «Bene», dissi. «È quello che voglio anch'io.» The words of love are not enough, though sweet as wine, as thick as blood. Passionless moments, and we are homeless out on the street. But life is cool and things are bad. Got what he wants, lost what he had. He soon adjusted and got accustomed to these new ways. Daytime hides. Who lingers on? Who sleeps outside? The soft seduction, a strong attraction, somewhere downtown. A junkie's song, a dancer's knees. The laws of chance, strange as it seems, take us exactly where we most likely need to be.